L'Associazione Culturale Connettive presenta Controessenze, la rubrica letteraria delle donne, mujeres, femmes, women, mulieres, frauen, uniques, mujeres. The cauldron was a bubbling, the flesh was lean, and the women moved forward like piranhas in a stream, and they spread themselves before me, an offering so sweet, and they beckoned, and they beckoned, come on, darling, eat. Buonasera a tutti e a tutti, stasera parleremo di un tipo molto particolare di violenza contro gli animali, lo stupro legalizzato, e lo faremo come sempre tentando di ampliare il discorso e di riconnetterlo allo stupro legalizzato delle donne, la prostituzione. Parleremo dei bordelli in cui le vittime sono animali e dei bordelli in cui invece le vittime sono le donne. La relazione che riteniamo possibile fare affonda le sue radici nel concetto e nella pratica della diversificazione e dell'inferiorizzazione, meglio forse sarebbe definirla ideologia del dominatore. Questa ideologia si realizza in modo molto semplice, prevedibile e terribilmente concreto. È un'ideologia che ha però effetti reali, materiali, visibili sulla vita delle donne e degli animali. Tra le diverse forme di violenza esercitata nei confronti delle donne e degli animali, lo stupro è quella che tra tutte palesa la relazione tra violenza, appunto, e il piacere di esercitarla, l'atto sessuale. Il dominio e la violenza si fondono e vengono esercitati nella maniera forse più crudele e devastante. Il corpo è il luogo in cui si materializza il senso e il significato, in cui i significati che vengono veicolati socialmente agiscono e si manifestano, si incarnano. Possiamo dire quindi che il corpo rappresenta il punto di incontro fra il sociale e il personale, il luogo in cui avviene l'interiorizzazione e la ripetizione delle costruzioni sociali. Se questa idea di corpo ha una sua validità esplicativa, se ha un qualche significato, allora la domanda che possiamo farci è: che tipo di significato porta con sé un corpo prostituito, un corpo comprato, usato e pagato per l'appagamento di qualcuno che sta fuori da quel corpo? Un corpo che si fa strumento di soddisfacimento di un altro corpo, un corpo che non ha godimento nell'atto che dovrebbe dare godimento, un corpo stuprato e violentato. Quindi, lo stupro di donne e animali ha in comune, come dicevamo, il processo di inferiorizzazione, cioè la riduzione ad oggetto dell'essere usato. Questo processo si avvale del concetto di natura. Donne e animali vengono considerati oggetti naturali, vicini all'istintualità, selvaggi e quindi manipolabili, addomesticabili attraverso la sottomissione. Questa dinamica che descriviamo è facilmente riscontrabile nell'immaginario veicolato dalla prostituzione e dalla pornografia, piene di immagini di dominio, di privazione, di soggettività, in cui appunto il corpo del soggetto comprato non ha alcun desiderio suo proprio, nessuna volontà, nessun autentico godimento. L'oggettificazione, nella sua espressione più evidente, è la sedazione degli animali vittime del mercato della prostituzione e della pornografia, ma anche a volte delle donne. Questo processo si traduce in ingenti guadagni per gli sfruttatori, dai bordelli alla pornografia. Lo stupro di animali in alcuni paesi è legale. Il mercato della pornografia utilizza ormai da diverso tempo gli animali ed è un mercato che sembra essere purtroppo in espansione. Nella civilissima Nord Europa, per esempio, i bordelli con animali non sono illegali, anzi c'è un gran giro di soldi. In Germania, per esempio, il fenomeno sembra assumere una portata preoccupante, tanto che Madeleine Martin, responsabile della protezione animali dell'Assia, afferma che la zoorastia viene considerata sempre di più come una scelta, come una preferenza sessuale, quindi più accettata. Dice Madeleine Martin, l'abuso sembra incrementarsi rapidamente e internet offre una piattaforma di distribuzione addizionale. Emblematica a questo proposito, a proposito appunto dello studio degli animali, è la storia di Pony, qualcuno di voi l'ha sentita, una orango salvata dalla prostituzione da una veterinaria spagnola, Carmele Llano. Carmele trovò Pony truccata, incatenata in balia di una folla di uomini che a turno la stupravano. Per il salvataggio di Pony, racconta Carmele, fu necessario l'intervento di una trentina di agenti locali. I suoi stupratori non volevano proprio rinunciare al loro passatempo. Gli animali stuprati vengono pesantemente drogati, come dicevamo, e a volte muoiono anche a causa dell'utilizzo di questi anestetici. E questo come non pensare alle prostitute bambine in Bangladesh, per esempio, bambine di 10, 11, 12 anni vendute dalle proprie famiglie schiavizzate, stuprate nei numerosissimi bordelli, spesso anche dai turisti occidentali, che vengono costrette ad utilizzare steroidi che accentuano le loro curve e che provocano chiaramente numerosissimi effetti collaterali. Molte sono le strade attraverso le quali gli animali vengono catturati, annunci su internet, alcuni sono randaggi che vengono catturati e introdotti nel mercato del sesso con animali, poi i bordelli chiaramente, per non parlare dell'industria del porno. In Danimarca, dove come in altri paesi del Nord Europa la prostituzione animale è legale, la legge sulla tutela animale tollera l'esistenza dei bordelli animali e sostiene che le persone hanno diritto ad avere rapporti sessuali con gli animali nella misura in cui il rapporto, sarebbe meglio chiamarlo stupro, non arreca sofferenze all'animale stesso. Molti padroni di animali pubblicano annunci su internet in cui offrono i loro animali domestici o da allevamento ai clienti che sono anche disposti a pagare una cifra che va dagli 80 ai 170 euro per un rapporto sessuale. Questo crea un giro d'affari piuttosto grande ed è questa la ragione per cui lo Stato danese si oppone alla proposta di abrogazione della legge che viene tuttora avanzata da gruppi di attivisti per i diritti degli animali. Un funzionario governativo danese che lavora per il settore benessere animale dell'Autorità per la Sicurezza Alimentare, la FSA, ha ammesso in un'intervista che gli animali, a differenza di quello che recita la legge, soffrono molto a causa degli stupri commessi su di loro. Sono molti i casi di sanguinamento e di sofferenza fisica e psicologica documentati anche su internet, proprio perché, come succede alle donne vittime di stupro, anche gli animali sono obbligati con la forza ad avere rapporti sessuali. Inoltre, molti dei clienti dei bordelli animali vengono a frotte in Danimarca perché la legge qui è molto più permissiva rispetto a quella che vige nei loro paesi, dove la prostituzione animale è anche legale. Parliamo di paesi come la Svezia, la Norvegia e la Germania. In Germania, ad esempio, avere rapporti sessuali con animali è un trend in aumento e viene considerato addirittura uno stile di vita. Negli Stati Uniti sono centinaia i casi che sono stati riportati negli stati federali in cui avere rapporti sessuali con animali è ancora legale. Ci sono stati riportati casi di stupro di animali, spesso in connessione con abusi sessuali e pornografia infantile. Si può trovare una lista degli abusi su animali commessi negli Stati Uniti sul sito petabuse.com. In Turchia è molto frequente trovare cani stuprati o uccisi per le strade della città. In particolare sono stati commessi diversi stupri su una cagnolina randagia del dipartimento di Sincan ad Ankara, a pochi metri di distanza peraltro da un edificio costantemente sorvegliato dalla polizia. come abbiamo già parlato in precedenza, noto è il caso di Pony. Ora vediamo un attimo nello specifico. Pony è una femmina di orango dello stato indonesiano del Borneo, che è stata riscattata dalla schiavitù sessuale. L'organizzazione che l'ha riscattata, la Borneo Orangutan Survival Foundation, ha dichiarato che Pony, dopo essere stata strappata dal suo habitat, una foresta pluviale in cui peraltro gli alberi vengono abbattuti per ricavare olio di palma per la produzione di cracker, di cioccolato e di gelati per l'industria globale, soprattutto per i paesi occidentali, è stata ridotta in schiavitù in un villaggio rurale. È stata trovata distesa su un materasso incatenata al muro. Pony veniva depilato ogni giorno dalla sua madam per volere dei clienti, i quali preferivano avere rapporti sessuali con lei invece che con schiave sessuali umane, che la madam procurava anche in alternativa all'orango, perché, come abbiamo già detto, la consideravano un'esperienza nuova. Di conseguenza Pony aveva la pelle piena di tagli e di bruciature provocati dalle lamette, e ogni volta che un uomo la avvicinava lei cominciava a piruettare e a fare moine. Alle mani e ai piedi le infilavano dei bracciali e a causa della rasatura il suo corpo era ricoperto di morsi di insetti che spesso diventavano infetti. La madam si rifiutava di dare via l'animale perché per lei rappresentava una grossa percentuale di guadagno, e gli stessi abitanti del villaggio si opponevano al suo riscatto e minacciavano gli attivisti e i poliziotti con pistole e coltelli. Come abbiamo detto prima, Pony è stata liberata in un blitz in cui sono stati reclutati 35 poliziotti armati di pistole, e ora i suoi cuccini non sono nemmeno in carcere, perché in Indonesia, come si sa, non esiste una legge che protegga gli animali da abusi, ma dagli abusi, dai maltrattamenti, dalla schiavitù sessuale, per cui i colpevoli non possono essere incriminati. L'immaginario a cui facevamo riferimento è descritto molto bene da Carol Adams in Lo stupro degli animali, la macellazione delle donne, quando parla di una pubblicità e dice: una prospera creatura sessuata è adagiata accanto al suo drink, indossa gli slip di un bikini ed è abbandonata su un'ampia poltrona. Con la testa reclinata in modo seducente sopra un elegante merletto ricamato. Un drink invitante con una scorza di limone l'attende sul tavolino. Tiene gli occhi chiusi. La sua espressione comunica piacere, rilassamento, lussuria. Si tocca tra le cosce, concentrata nella masturbazione. Anatomia della seduzione, oggetto sessuale, drink, camera accogliente, attività erotica. La formula è completa. Ma non è una donna che prova a sedurci, è un maiale. È Ursula Andress, che fece la sua apparizione su Playboy, una rivista che si autodefinisce il Playboy dell'allevatore di maiali. Come si può spiegare in questa immagine pornografica la sostituzione di una donna con un animale non umano? Costei ci sta invitando a stuprarla o a mangiarla? Nel 1987 ho presentato Ursula Andress nella sessione intitolata Sexual Violence, Representation and Reality nell'ambito di un incontro su Feminism and its Translations presso la Princeton's Graduate Women's Studies. Nello stesso mese, a meno di 60 km di distanza, tre donne vennero trovate incatenate nello scantinato della casa di Gary Heidnik a Filadelfia. In cucina, parti del corpo di una donna furono rinvenute nel forno, in una pentola, sulla stufa e nel freezer. Le gambe e le braccia erano state mangiate da un'altra donna prigioniera, costretta via dal carceriere. Una delle sopravvissute raccontò che durante la prigionia Heidnik la violentò più volte mentre era incatenata. Penso che tra Ursula Andress e le donne rapite, violentate e mangiate da altre per ordine di Heidnik, esista un nesso legato alla sovrapposizione di immagini culturali di violenza sessuale sulle donne e di frammentazione e smembramento della natura e del corpo nella cultura occidentale. Continuiamo con la lettura dell'articolo di Carol Adams nel pezzo in cui evidenzia il binomio seduzione-sedazione nel consumo di carne. Dice: i polli svolazzano sul tavolo con coltello e forchetta tra le cosce, implorando di essere mangiati. Ora qui parla dell'esperienza di una donna. Mi legava e mi obbligava ad avere rapporti sessuali con il nostro cane. Si metteva sopra di me, tenendo fermo il cane, e gli piaceva scoparsi il cane mentre il cane aveva il pene dentro di me. In questa descrizione, tanto il cane quanto la donna vengono stuprati. Molti stupri non prevedono il coinvolgimento di animali, ma le frasi che le vittime di stupro usano per descrivere le proprie sensazioni suggeriscono che il destino dell'animale mangiato è il paragone più immediato per esprimere la loro esperienza. Quando a stupro avvenuto le donne sostengono di sentirsi come un pezzo di carne, stanno forse affermando che esiste una connessione tra l'essere penetrate contro la propria volontà e l'essere mangiate? Una donna riferisce che mi faceva sentire proprio come un pezzo di carne, come un contenitore. Mio marito mi diceva che una ragazza è solo una serva che non può pensare, è un contenitore, un pezzo di carne. Continua Carol Adams. Nel Lamento di Portnoy, Philip Roth mostra come la carne divenga un contenitore per la sessualità maschile quando Portnoy la utilizza per masturbarsi. «Vieni, ragazzone, vieni!» urlava il pezzo di fegato impazzito che nella mia follia mi comprai un pomeriggio da un macellaio e, per quanto non sembri vero, violai dietro un cartellone pubblicitario mentre ero diretto a una lezione per la bar mitzvah. A meno che il ricettacolo non sia il pezzo di carne di Portnoy, un oggetto sessuale non viene letteralmente consumato. Allora, perché questa ambivalenza? Cosa collega l'essere un ricettacolo e l'essere un pezzo di carne? Essere penetrata ed essere mangiata? Dopotutto, l'essere stuprata, violata, penetrata non assomiglia all'essere mangiata. Ma allora perché ci si sente così? O meglio, perché risulta così facile una simile descrizione dell'accaduto? Perché se sei un pezzo di carne, sei assoggettata ad un coltello, sei assoggettata alla violenza strumentale. Anche lo stupro è violenza strumentale e il pene è lo strumento della violenza. Vieni tenuta schiacciata a terra dal corpo maschile, così come la forchetta tiene fermo un pezzo di carne in modo che il coltello possa tagliarlo. Inoltre, come il mattatoio tratta gli animali e i suoi lavoratori alla stregua di oggetti inerti, non senzienti e non pensanti, così, allo stesso modo, nello stupro sono le donne ad essere trattate come oggetti inerti, senza alcuna attenzione per i loro sentimenti e i loro bisogni. Per questo motivo si sentono come pezzi di carne. Analogamente, esistono congegni che permettono l'inseminazione degli animali contro la loro volontà. Sentirsi come un pezzo di carne significa essere trattati come un oggetto inerte, mentre si è o si era un essere vivente e senziente. La metafora della carne che le vittime di violenza sessuale scelgono per descrivere la loro esperienza indicano che lo stupro è paragonato e associato al consumo, consumo sia di immagini di donne che letteralmente di carne animale. Il ripetuto uso da parte delle vittime di stupro del termine hamburger per descrivere il risultato della penetrazione, della violenza, dell'essere preparate per il mercato, implica non solo quanto sia spiacevole essere trattate come un pezzo di carne, ma anche che gli animali possono essere essi stesse vittime di stupro, sono stati penetrati, violati, preparati per il mercato contro la loro volontà. Eppure, metafore culturali sovrapposte strutturano questa esperienza come se ciò avvenisse per volontà delle donne e degli animali. Per giustificare il mangiare carne si usa riferirsi al desiderio degli animali di morire e di diventare carne. In Erewhon di Samuel Butler, la carne è vietata a meno che non provenga da animali morti di morte naturale. Come risultato ci si accorse che gli animali morivano ad ogni piesso spinto di morte naturale, in circostanze più o meno sospette. Era stupefacente vedere come alcuni di quegli sventurati piuttassero il coltello del macellaio anche a un miglio di distanza e corressero a infilzarcisi se il macellaio non faceva in tempo a spostarlo. Uno dei miti della cultura dello stupro è che la donna non solo chiede di essere violentata, ma che le fa piacere, che tutte sono alla ricerca del coltello del macellaio. Analogamente, la pubblicità e la cultura popolare ci raccontano di animali che desiderano essere mangiati. L'implicazione è che le donne e gli animali partecipano spontaneamente al processo che li rende assenti. In Total Joy, Marabel Morgan connette donne e animali attraverso l'uso della metafora dell'hamburger. La Morgan promuove una propria sindrome di Schmoe per suggerire alle donne di considerare loro stesse come hamburger per soddisfare i bisogni dei mariti. Come un hamburger puoi doverti preparare in una varietà di modi, prima e dopo. La struttura della frase «devi prepararti come un hamburger» implica che l'hamburger prepari se stesso in una varietà di modi, così come appunto devi fare anche tu, donna. Ma all'hamburger, molto tempo prima di arrivare nella cucina della donna completa, è stato negato ogni potere, non può preparare proprio nulla. «Tu, donna, moglie» si riferisce al e sta per l'hamburger. Le donne stanno alla donna completa esattamente come stanno all'hamburger. Sono qualcosa di oggettivato, senza potere, che deve essere preparato, rimodellato, istruito per essere reso consumabile al mondo nel mondo patriarcale. Sebbene il referente sia assente, le donne non possono fare a meno di riconoscersi in esso. Ed è esattamente come gli animali non vogliono affatto essere mangiati, la struttura dell'affermazione della Morgan mina il suo stesso tentativo di convincere le donne che ciò vale anche per loro. Come si trasforma un individuo ribelle, scalpitante, impaurito in pezzi di carne? Per essere ridotti da individuo ad oggetto occorre l'anestesia. Barker Benfield ci racconta di un medico del XIX secolo che seguì il caso di un uomo che voleva avere rapporti sessuali con la moglie. Il medico andava a casa della coppia 2 o 3 volte alla settimana per rendere incosciente attraverso l'uso di un sedativo la povera moglie. L'anestesia degli animali come preludio della macellazione ci ricorda la complicità di questo medico nello stupro di questa donna da parte del marito. Ciò che non può essere fatto ad un corpo completamente sveglio e combattivo può essere compiuto su uno anestetizzato e sedato. Ciò che costituisce un caso eccezionale nello stupro è tuttora la regola nella macellazione. La sedazione è parte essenziale della produzione di massa della carne. Un animale sedato garantisce una gestione più economica, condizioni di lavoro più sicure e più funzionali per il macellaio e permette di produrre carne di qualità superiore. I tessuti muscolari degli animali contengono sufficiente glicogeno per sintetizzare dopo la morte un conservante, l'acido lattico. Il glicogeno, però, può essere consumato dalla tensione fisica e nervosa prima dell'uccisione. Per questo motivo la sedazione della vittima e gli interventi medici per anestetizzarla fungono da preludio alla macellazione. Gli animali sovreccitati e terrorizzati non sanguinerebbero abbastanza e la loro carne morta risulterebbe quindi rosa e vermiglia, rendendoli di fatto carcasse poco attraenti. La sedazione degli animali da carne comincia con i tranquillanti che vengono iniettati o mescolati al cibo. Dopo che l'eccitazione e l'angoscia sono state ridotte al minimo, gli animali vengono immobilizzati con metodi meccanici, chimici o elettrici. Lo scopo non è quello di uccidere immediatamente l'animale, dice Arabella Jukin, giù l'oscuro di Thomas Hardy, ma solo di intontirli e di far sì che comincino a sanguinare mentre il cuore sta ancora battendo, in modo che il sangue fuoriesca. Curiosamente, mentre gli animali si avvicinano al momento della macellazione, le descrizioni dell'industria della carne utilizzano un linguaggio che implica una volontà da parte degli stessi di compiere i gesti che compiono. Più vengono immobilizzati e più finemente le parole che descrivono il processo di macellazione si riferiscono a loro come se fossero liberi in grado di muoversi, così che i loro movimenti paiono essere assolutamente spontanei. Essi emergono, si volgono e scivolano. Il concetto della seduzione e sedazione ha prevalso. Gli animali sembrano attivi e agenti volontari nello stupro delle loro stesse esistenze. Wild, wild, wild flower, watered with child power, growing from cracks in cement sidewalks and schoolyards and playgrounds. Singular and lovely, common and ugly. Philadelphia child, piled high with visions of his story, rhythms of ghetto's glory. Richard Allen, 52-story buildings, Elfrith's Alley, Liberty Bell rings, sewer smells and belly swells. Class trips to Independence Hall evoke questions like, where do I fit in all of this? Four ghetto girls and barrio boys taught lessons in the voice of the founding forefathers, but those same four still ain't found their fathers. Philadelphia child, at the mercy of the public school system, at the mercy of the existence of human allegiance and government finance, dance with the element of chance, the chance to grow, the chance to fly, the chance to know, the chance to die, in body, in spirit, mind, or soul, the chance to be gold or fool, the chance to be gold or fool. Philadelphia child, Olympic hopeful, won gold medals in mattress flipping and subway sprinting, well versed in the yo lingo, pretzel and cheesesteak fed, Philly born and bred, tasty cake sweet or hard of head, tread and trample on same ground Ben Franklin and the boys walked upon. Drill teams have replaced the not ready for integration declaration of interdependence players. White booted, Philly attituded, zooted up on Schuylkill punch. They shout above drum and street stomp saying, we are here. We are here. We are here. We are here. We are. We live. We matter. We are. We live. We matter. La domanda di Jack lo Squartatore viene riportata da Carol Adams in un altro passaggio dello stesso capitolo di The Sexual Politics of Myth, e come esempio della metafora culturale simbolica che accomuna le donne stuprate agli animali macellati. Jack lo Squartatore era uno stupratore assassino che nel 1888 stuprò, uccise e mutilò 8 donne. Una volta consumato lo stupro, l'assassino smembrava le sue vittime con diversi attrezzi di macellazione che utilizzava con molta precisione, tanto da far pensare a chi indagava su di lui che il suo obiettivo principale fosse l'eviscerazione delle vittime, dal momento che i loro corpi morti venivano spesso ritrovati privi di alcuni organi interni. L'accostamento tra questi corpi di donne mutilate e gli animali macellati era evidente, tanto che si racconta che molti dei poliziotti che collaboravano alle indagini non riuscirono a mangiare carne per diversi giorni. La donna macellata rimanda al cadavere di un animale morto, preparato per essere mangiato. In secondo luogo, tra le diverse ipotesi formulate per spiegare il comportamento dello stupratore assassino, ci fu quella secondo cui gli organi prelevati dai corpi delle donne uccise venissero vendute al mercato di organi. Si vociferava infatti che ci fosse un americano che pagasse 20 sterline a utero a scopo di ricerca medica e che l'assassino gli procurasse ciò di cui aveva bisogno. Attraverso la macellazione sia gli animali che le donne sono venduti per il consumo prevalentemente maschile. I primi per diventare carne da vendere e da mangiare, le seconde per diventare prima oggetto di consumo sessuale e poi prodotto da vendere sul mercato internazionale di organi o in quello della pornografia. Sia il traffico di organi che gli snuff movies pornografici, infatti, sono stati ipotizzati come movente degli omicidi delle donne messicane di Ciudad Juarez, avvenuti tra gli anni 90 e il 2004. La macellazione sessuale, afferma Carol Adams, è una componente basilare della sessualità pornografica maschile. Gli infami snuff movies, pellicole chiamate così perché negli ultimi minuti si assiste alla morte di una donna, celebrano la macellazione della donna come atto sessuale. In questi film la donna viene letteralmente macellata, esattamente come si fa con gli animali. Con questi esempi Carol Adams vuole sottolineare come l'umiliazione, la violenza e la mercificazione siano trasversali e comuni a entrambi i progetti di asservimento e di oppressione delle donne e degli animali. Per spiegare in che modo oppressione femminile e oppressione animale si intersecano, ricorre al concetto del referente assente. Lo stupro e lo sfruttamento sessuale delle donne consumate come pezzi di carne rimandano all'immaginario della macellazione animale. Allo stesso modo, nel caso in cui si consuma carne di animale o si impiegano animali per sfruttarli come oggetti sessuali nei bordelli, fenomeno di cui abbiamo parlato poc'anzi, il referente assente riconduce chiaramente a un corpo femminile reificato. L'interconnessione tra sfruttamento sessuale animale e la lotta comune che le femministe e gli attivisti animalisti dovrebbero condurre assieme, e non separatamente, contro di essi, viene ben illustrata da Adams in una delle ultime battute di chiusura del secondo capitolo. Il linguaggio delle teoriche femministe dovrebbe descrivere e sfidare l'oppressione, riconoscendo fino a che punto queste due forme di oppressione sono culturalmente analoghe e interdipendenti. Analogalmente, gli animalisti dovrebbero diffidare di una retorica che si basa sul ricorso metaforico allo stupro per descrivere ciò che accade agli animali, ma che non fonda la propria analisi su un preciso riconoscimento del contesto sociale in cui avviene lo stupro delle donne nella nostra cultura. Il prestito metaforico, che, pur facendo riferimento alla violazione, manca di denunciare la violenza originaria, si condanna a non riconoscere l'interconnessione tra le diverse forme di oppressione. Il nostro obiettivo dovrebbe invece essere quello di opporre resistenza alla violenza che separa la materia dallo spirito, al fine di eliminare il dispositivo che produce i referenti assenti. siamo arrivate alla fine della nostra trasmissione. Vi ricordiamo che se volete condividere le vostre riflessioni su quanto detto stasera o su qualsiasi altra cosa, potete scriverci all'indirizzo connettive@gmail.com. Se invece volete approfondire le tematiche di cui oggi abbiamo parlato o affrontato e conoscere in modo più approfondito il lavoro di Carol J. Adams, potete andare sul sito www.caroladams.com, in cui troverete diversi materiali relativi alle sue pubblicazioni. E ora ci salutiamo e vi diamo appuntamento tra 4 settimane, sempre con la nostra rubrica Controessenze. Vi lasciamo però con una frase di Vandana Shiva che ci piace molto: la democrazia non è il diritto di comprare ciò che si vuole, è il dovere di essere responsabile per tutto ciò che ti circonda. La democrazia comincia quando siamo liberi dalla fame, liberi dalla disoccupazione, liberi dalla paura e liberi dall'odio. Per me sono queste le vere libertà, le libertà sulle quali deve fondarsi una buona società umana. Buona serata. Flesh was lame.